Lui venne un mattino, in un mattino chiaro, negli occhi lui aveva il sole che cercavo in me. Gli chiesi il suo nome, lui mi disse non importano, tu chiamami amore ed io ti risponderò. Prese la mia mano, io gli dissi dove andiamo, andiamo dove il cielo fa un ricamo in pizzo blu, via dalla solitudine, dagli occhi color ruggine, non ti voltare indietro, il passato non c'è più. Ciao, ciao a tutti. Prog 5 quarti intanto è scappato via a farsi i cazzi sua. No, ci sono. Buonasera. Eccolo. Buonasera. Benvenuti all'ultima, ultimissima puntata del Rovescio della Medaglia. Questo è il giochetto che abbiamo portato per il nostro ospite internazionale che a quanto pare ancora non arriva, però arriverà. Però ha promesso che sarebbe arrivato. Ma come mai questa sigla? Che questa è una fantastica cover di Caterina Caselli, L'Uomo del Paradiso, dal suo album eponimo / omonimo, che praticamente anche lei, noi per mantenere la tradizione, la tradizione prog degli album eponimi / omonimi, anche Caterina Caselli dal suo album omonimo abbiamo preso L'Uomo del Paradiso, che è praticamente la cover del famoso pezzo degli Uriah Heep che presenteremo stasera, Lady in Black, e appunto mi sembrava carino aprire con lei, visto che settimana scorsa abbiamo aperto con Whiter Shade of Pale Day dei Dick Dick, e quindi nulla, e mi sembrava carino, ecco, aprire in bellezza l'ultima puntata. Se vuoi la faccio anche ripartire, la lasciamo di sottofondo mentre... No, lasciala, dai. Cioè, lasciala, anche cioè, significa... Cioè, si riparte da andiamo capo. Avanti. No, andiamo avanti, dai. Ah, va bene, va bene. Andiamo avanti con la nostra scaletta, quindi siamo alle ultime lettere dell'alfabeto inglese. E questa sera... abbiamo soltanto tre gruppi, vero? Sì, soltanto, sì, per modo di dire, sì, anche perché sì. La scaletta oggi è lunghissima, quindi preparatevi e fate tutto quello che dovete fare in fretta per potervi comodamente sedere sui vostri comodi divani, sedie, e divani di fatti ripancali, hai visto, ora va molto... Sì, ora il pancale il riuso del pancale. Per ultima puntata, Prog 5 quarti, io ho pensato di auto-intervistarci, visto che non ci ha mai pensato nessuno, Era carino. Ah, è vero, questa improvvisata così. Sì, tipo, prima domanda, 5 quarti. Socialmente, come ti senti dopo 20 puntate del rovescio della medaglia o The Other Side of the Coin? Ma socialmente, nel senso come penso che sia stata recepita questa trasmissione? Sì, magari, sì. Che ne so, se i compagni ti salutano per strada quando ti vedono. Sì, cioè. No, no, i nostri 3-4 mila ascoltatori mi aspettano fuori dalla regia, fuori. Mi cercano comunque, io non mi faccio trovare per sicurezza. Questa era la prima domanda, poi nel corso della puntata verranno altre domande che ci alterneremo, quindi oggi siamo come si può dire, in duplice, triplice ruolo. Oggi siamo presentatori, DJ, intervistatori, tecnici del suono. Fra poco, se arriva qualcuno che ha bisogno di essere stirato la camicia per domani, quello, si quello fa pure sempre. Quello, quindi tutto, via. Allora, come apriamo? Come apriamo? Apriamo con col presentare il primo gruppo. Che il primo gruppo lo devi presentare te, se non sbaglio, no? È vero, era un piccolo, volevo metterti alla prova. Okay. Volevo perché coglierti andiamo, di sorpresa. Comunque andiamo sempre in ordine alfabetico, più o meno. Sì, no, si rispetta. Quindi rigorosamente l'alfabeto. Allora, il primo. Aspetta, scusate, stavo fumando. Quello che Prog, giustamente, Prog 5 quarti, dice: guarda, siamo in ritardo. Noi chiamiamo la puntualità e nulla. Allora. E apriamo con appunto gli Uriah Heep, che sono un gruppo Ivy Progressive nato a Londra nel 69. Cioè, quindi un altro termine, quindi abbiamo aggiunto al nostro vocabolario. Ah, siamo anche neologisti oggi. Sì. Quindi oggi siamo un po', siamo tutto. E dicevamo, praticamente questi Ivy Progressive cos'è? Ivy Prog o Hard Prog addirittura si può definire, quindi tutta una serie di proto beat, tardo beat, le abbiamo elencati tutti, in effetti questi ci mancavano, ossia Ivy Prog o Hard Prog, che praticamente diciamo si caratterizza per dei possenti riff di chitarra che vanno già quasi verso il metal. E con basso e batteria abbastanza incalzanti e anche con trame, diciamo, molto cupe. Oddio, anche se questo, poi diciamoci la verità, non è che i progressive in generale sia proprio è stato mai così scoppiettante, così celeste, così. Comunque, vabbè. Diciamo, questo ha fatto un po' da apripista a quello che è stato l'hard rock e il metal, che poi magari ci possiamo anche pensare a fare qualcosa sull'hard rock, Prog 5 quarti, visto. Vediamo. C'è un po' di robetta hard rock bellina, made in USA. E ricordiamo anche che appunto possono associarsi a questa corrente musicale anche il balletto di bronzo e il rovescio della medaglia, quindi il rovescio della medaglia è che dà il gruppo da cui si è preso il nome della trasmissione, e il balletto di bronzo che abbiamo presentato quando si è presentato il Prog Italiano. E in principio questo gruppo si chiamava The Stalkers, che poi cambiano nome di nuovo con Spice. Perché Spice, come lo leggi te? no, va bene Spice. No, io, sai, mi metto sempre in come si dice? Ok. E quindi poi in ultimo passano al nome ufficiale loro, appunto Uriah Heep o Uriah Heep, che non, secondo te come si pronuncia? Ma io pensavo Uriah Heep. Uriah Heep. Però non sono sicuro, ma... Io ho sempre la deformazione giamaicana barra latina. Allora, che appunto è un nome preso da un romanzo, da un famoso romanzo di Charles Dickens, che era David Copperfield, e nel 1970 esce il loro primo disco chiamato Very Heavy, Very Humble, di cui andiamo a presentare di questo album due pezzi, che sono Gypsy, che è un pezzo abbastanza, come abbiamo detto, cupo, però si sente già abbastanza l'influenza metal, e I'll Keep On Trying, che mixerò, ho deciso autoritariamente che mixerò, perché Prog 5 quarti intanto fa i cazzi su alla grande. No, sto gestendo tutti i nostri social. Gli ascolti, è vero. Allora diamo subito qualche notizia tecnica, almeno aumentano i social attivi. Allora, ricordiamo il nostro sito wombat.noblogs.org, il nostro Twitter, twitter.com/radiowombatfi, facebook.com/radio-wombat-firenze, e per... diciamo suggerimenti, richieste in diretta, potete scriverci al nostro indirizzo di posta, che è postawombat@insiberia.net. Ok, allora io andrei a questo punto con la selezione, con la musica. Che ne pensi, Provi 5 quarti? Andiamo, perché comunque la scaletta sarà lunga, quindi andiamo subito con il primo pezzo degli Uriah Heep. Ok, allora, come abbiamo detto, presenteremo dal primo album Very Heavy, Very Humble, Gypsy e I'll Keep On Trying, qui su Radio Wombat. Gypsy Queen, she told me, hold on. Father was the leading man, said you're not welcome on our land. And then as a foe, he told me to go. Put a whip across my back, then told her, leave me. I was out for quite a time, came back with her on my mind. Sweet little girl, she means all the world. We'll be right back. Ok, allora erano gli Uriah Heep dal loro primo album. E, seconda domanda per Prog 5 quarti. Prog 5 quarti, noi, perché anch'io comunque sono un ascoltatore oltre che presentatore, ci chiedevamo, ma dopo aver presentato gli Area, quindi Parco Lambro, è vero che ti sono tornati in mente un sacco di ricordi e di aneddoti legati a quel festival dove, dove tu prendesti parte? In particolar modo un aneddoto di tipo anche tecnico, no? Come si disse nella puntata dedicata agli Area, su questo esperimento che fecero dal palco, tirarono dei cavi dal sintetizzatore verso il pubblico e il pubblico toccando i cavi e toccandosi, diciamo, a vicenda, facendo chiudere questo circuito, questo contatto, e si riusciva dal pubblico a far suonare il sintetizzatore. E io facevo parte di una del cerchio, di quei collegamenti. Ok, allora, scusate, ma oggi così non era calcolata e da contratto l'intervista, sicché ce la siamo fatta da noi. Va bene, allora passiamo al secondo album invece che esce nel 71 e si chiama Salisbury, e che è definito dalla critica un'opera rock monumentale, diciamo uno dei migliori lavori del gruppo. E l'album presenta una lunga suite che dà anche il nome all'album, di 16 minuti, che chiaramente vi risparmieremo, che viene suonata insieme ad un'orchestra di 24 elementi. E di questo album andiamo a presentare The Park e Lady in Black, ossia la versione originale della cover di Caterina Caselli che abbiamo sentito prima, L'Uomo in Paradiso, che ha aperto la puntata. E andiamo alla musica, Prog? Vai con la musica. Thank you.

Ok, e questa era Lady in Black, che più o meno l'ascolto dalle 17 alle 48 volte al giorno. È un pezzo veramente molto, molto bello. Sì, sì. E anch'io, se fossi stata Caterina Caselli, l'avrei rifatto anche io. Potresti sempre diventarla. Potrei diventare Caterina Caselli e rifare Lady in Black degli Uriah Heep, che veramente, veramente, veramente. Ok, allora andiamo avanti presentando quello che è il terzo album dei sempre degli Uriah Heep, chiaramente. Nel 72 loro praticamente partono per una tournée negli Stati Uniti e al loro ritorno registrano Look at Yourself, che quest'album si va sempre più nella direzione del metal. E di questo album andiamo a presentare il pezzo omonimo Look at Yourself e Shadow of Grief. Basta, presentiamo i pezzi o diciamo buon altro? Ascolto. No. Sì. Oppure, non lo so, vogliamo fare un po' di agenda della settimana? Facciamolo ora. Diamo un po' di appuntamenti. Vuoi leggere te il primo evento? Il primo evento lo leggo io, e è un evento che ci riguarda da vicino, perché sabato prossimo, che non so, che è sabato 25 marzo? Sabato 25 marzo. Al Next Emerson in via di Bellagio ci sarà un aperitivo, un Aperi Wombat. Quindi dalle 19 ci sarà un aperitivo con un DJ set dei vostri DJ preferiti di Radio Wombat. Ma quando torna l'ora legale? Non lo so, noi rimaniamo sempre nell'ora illegale. Perennemente nell'ora illegale. Sì, sì. Quindi un Aperi Wombat dalle 19 del pomeriggio con cose mangerecce, le solite cose da bere. In più questa DJ set fino alle 10:30-11 con una collaborazione di tutti i più grandi DJ e le più grandi DJs di Radio Wombat fino alle, appunto, alle 23, perché dopo ci sarà un concerto, una serata organizzata dal collettivo Nuovi Rumori, che presenteranno i Morcobot, i Kabobo, i Collapse e la Veste. Una serata, diciamo, all'insegna del punk hardcore fiorentino e non solo. Da segnalare i Kabobo, che arrivano da Glasgow in Scozia, quindi abbiamo anche degli ospiti internazionali. E questa è la serata di sabato 25 marzo, e vi presenteremo un'altra volta i nostri loghi, il nostro merchandising di Radio Wombat dalle 19 in poi. Poi c'è un altro evento invece che è più vicino, ossia domani in Piazza Tasso, ci sarà una discussione aperta alle ore 19 leggo diciamo da flyer, da evento: discussione aperta sulla gestione dei migranti in Italia e la lotta contro il CIE di Torino. E quindi ci sarà appunto in Piazza Tasso questo dibattito / discussione aperta in piazza, e dopo a seguire musichetta e birretta, proprio leggo come da evento. Poi ancora andiamo con gli eventi della settimana, che potevamo mettere qualcosa sotto, vabbè. E, che ci abbiamo ancora? Leggiamo un po', e c'è Nino D'Angelo alla Fortezza. No, c'è allora serata al CPA Fisud venerdì 24 marzo. Jeffrey featuring Sista Simia on Joka Smoker Sound, quindi serata reggae dub al CPA Fisud, e penso basta. Sì, sì, ci sono da segnare le birrette, però non ho capito dove. No, le birrette, cioè, le birrette chapeau, ma sono al vecchio Sonno a Bologna. Ah, no, no, pensavo fossero solo gli eventi fiorentini. Comunque, siamo a martedì, ancora non abbiamo in mano tutti gli eventi del fine settimana, ma per ora andiamo avanti così. Devo dire che stasera ho il telefono bollente, veramente, dai grandi messaggi, dalle chiamate, la voglia di intervenire in diretta, ma non si può. Non lo so, cioè, arriviamo all'ultima puntata e mancheremo a tutti, ma non so, per continuare a insultarci o perché durante le altre, le 19 passate puntate. Sono arrivati anche dei bellissimi insulti in diretta, dei amichevoli insulti, affettuosi. Sì, sì, anche da Gasperino e Carbonaro. Va bene, via. Allora andiamo a presentare dall'album Look at Yourself del 72, presentiamo, chiaramente mixate, Look at Yourself e Shadow of Grief, sempre qui su Radio Wombat. What you do? Ok, ci avviciniamo alla fine. Ci avviciniamo alla fine della presentazione degli Urea Hip. E arriviamo al 72. Ma devo fare una comunicazione. Stop alle telefonate. Da questo momento in poi non è più possibile. Solo SMS. Stop alle telefonate e complimenti per la trasmissione. Grazie, troppo gentile. Prego. Sì, in effetti me li faccio, cioè anche a te faccio i complimenti per la trasmissione. No, certo. Una cosa che va detta, è un po' più televisiva che radiofonica, però ci sta sempre bene. Ci sta sempre bene, un po' in qualsiasi situazione, sto. Che quando vai al bar mi fa un caffè, complimenti per la trasmissione. Sì, un aperitivo, complimenti per la trasmissione. Sempre bene, è un evergreen. Arriviamo allora al 72. No, meno male che non c'è l'occhio del Big Brother. Sì, però posso descrivere la situazione. Cioè, Proguno con in mano il suo quadernone, con la scaletta con i gattini in copertina, e sull'altra mano una pagnotta di pane con una spianatella calabra e provola affumicata che è più grossa di lui. Siamo gente di strada, siamo, capito? Allora, che suona, che pare un po' la scena di Brutti sporchi e cattivi del grande Nino Manfredi. Allora, e dicevamo, nel 72 esce un altro capolavoro dei sempre, che si chiama Demons and Wizards, che ricordiamo anche è un gruppo metal che ha scelto di usare il nome di questo album come loro nome. e quasi chiude anche la nostra presentazione degli Uriah Heep. E ricordiamo che questo gruppo continuerà a produrre praticamente fino ai giorni nostri. Il 6 giugno, per l'esattezza, del 2014 presentano il nuovo disco che si chiama The Outsider. E lo portano in tournée in tutta Europa, e anche il 2 agosto hanno suonato anche al Baloma Bikers di Cerce Maggiore, che non so minimamente dove sia, per l'unica tappa italiana che hanno fatto. Te sai dove è Cerce Maggiore? No, però ho visto che è possibile che hanno suonato a Firenze questo inverno, durante... Io ho visto una segnalazione di Uriah Heep comunque in Toscana, se non... Dice che non è possibile, mi sta guardando malissimo. No. Ah no, quelli sono i Van der Graaf che hanno suonato a Rosignano. No, i Van der... No, ma ora, nel proprio 2016-2017, secondo me hanno suonato a Firenze da qualche parte, però va bene. No, dovrei sentire Mick Box e Trevor Boulder, li dovrei sentire e farmi raccontare. Bene, va bene. Okay. Comunque sono ancora in attività. Perfetto. Se volete ve li cercate. È vero, ma anche noi. E di questo album presentiamo Traveler in Time and the Spell, come l'incantesimo. Ok, musica maestro? Musica e buon appetito. perché allora, un piccolo fuori onda. E oggi come ultima puntata abbiamo un ospite speciale, l'ospite che dicevamo prima, l'ospite internazionale, è arrivato in questo in pochi secondi fa, direttamente da Prao, voglio essere e pretendo di essere rispettato, il Toz, vieni a salutare. Belli. Grande Toz. Grande Toz. Un'espressione tipicamente pratese, ci ha salutato con un bella lì. Ok, allora. Di solito le situazioni cinesi. Avvicina. Sono insieme con le pratese. Vabbè. È vero. No, non ho capito, però vabbè. Allora. Vabbè, Milano Prato c'è tutto. Milano Prato, voglio essere rispettato. Allora. Ok, allora chiudiamo con The Spell degli Uriah Heep. Toz, hai qualche richiesta da fare? No. No? Zero. Allora, mettiti, ti ho portato le macchinine, la mitragliatrice qua, vedi che puoi giocare, fai bravo. Vai, mettiti a giocare. Ok, allora. Passiamo allo step successivo. Ma prima di questo momento vorrei una base musicale. Vai DJ. Per aprire una bottiglia, perché è l'ultima puntata e quindi noi ce la brindiamo così, con una bottiglia di spumante. Aspetta che ti preparo la base. Un metodo classico che non vi sto a dire la marca, ma no, anche perché per pubblicità. No, in realtà è un cesso di prosecco. Posso fare intrattenimento. Allora. Sì. Vuoi che te la me la, me la metti? Faccio partire me la, subito. Sì, me la, grazie. Vai. E 1, 2, 3. E questo è un brano two, del primo three, album four. Dei Van der Graaf Generator. Just one breath and since I'm dead, it's the aerosol gray machine. E questo era il prosecchino da 4 soldi. E il nostro ospite internazionale ci verserà un bicchiere. Beh, grazie. Versaci. Te non te lo versare perché sabato a te pure vomitato due volte, quindi. Ok. Bene, allora partiamo con i Van der Graaf Generator. Che questo stacchetto era loro, come detto. Sì, sì, era, faceva parte del primo album. Del 1969 dei Van der Graaf, che però ma fai i bicchieroni, ma è uguale poi, sì. E che non abbiamo messo in scaletta perché comunque appartiene a quello che è stato la scena più psichedelica pre-prog. A questo punto, diciamo. Salute. A questo punto salute. E qua, ospite internazionale, tu direttamente con la boccia. Salute. Cin cin. Salute. Salute, come dicono. Ok. Bene, dicevo che apparteneva più a una scena un po' più psichedelica, anche se c'era già qualche elemento che si avvicinava. Pensi, prevedi che dovrò fare interventi nei prossimi due minuti? No, no, prego. Fai pure quello che devi fare. Però allora a questo punto ti abbasso il microfono. Sta mangiando il panino, quello famoso. Va bene, salutiamo per adesso Prog 1 e continuiamo con i Van der Graaf Generator. Allora, questo era questo l'album del 1979, mentre il periodo più progressivo incomincia nel 1970 con l'uscita del secondo album, che si chiama The Last We Can Do Is Wave to Each Other, del 1970 appunto, che è, possiamo considerare il primo album progressivo dei Van der Graaf Generator. Il titolo di questo album, la curiosità è che viene preso da una frase rielaborata del poeta John Milton, del poeta inglese famosissimo John Milton, e da notare tra i brani, diciamo, questo album non ancora propriamente che raggiunge la maturità dei Van der Graaf, ma un brano come quello che appunto ho scelto, After the Flood, è un brano già che, diciamo, che si proietta in avanti verso gli album successivi. E, cosa da dire? Lo stile musicale di Van der Graaf non è proprio il, diciamo, che si avvicina molto a quello che siamo abituati a sentire come il prog inglese, quindi non ci sono così tanti virtuosismi, barocchismi alla King Crimson o diciamo questi abbellimenti tecnici come gli Yes o i virtuosismi alla Emerson Lake & Palmer, però diciamo hanno una sonorità molto interessante, anche se molto più cupa del diciamo dei loro colleghi coetanei. Quindi io andrei con After the Flood, che significa dopo il diluvio, che è già il titolo, insomma, è una, diciamo, un'atmosfera abbastanza cupa. Quindi ci mettiamo anche due spari. Quindi con After the Flood andiamo a presentare il primo brano dei Van der Graaf Generator. Gone is the glory, the far distant rumble. Thank you. E questo fu il, diciamo, il primo album che ebbe un discreto successo, e infatti non passò inosservato agli occhi e soprattutto alle orecchie di Robert Fripp, che in quel momento era il chitarrista di King Crimson, che infatti nell'album successivo, sempre del 1970, Age to He Who Am The Only One, 1970, collaborò per la realizzazione di un pezzo che si chiama The Imperial in His War Room. E di questo album vi faremo sentire appunto The Imperial, e il secondo brano che ho scelto è anche questo una lunga, diciamo, una lunga elaborazione musicale, che si chiama Pioneers. E il nome di questo album fa riferimento H, quindi H2E, a delle formule chimiche dell'elio e l'idrogeno, e tutto l'album diciamo un po' intriso di formule chimiche, matematiche e citazioni riguardo alla formula della velocità della luce. Questo il perché lo chiedete a loro, però diciamo ci sono queste citazioni scientifiche. E diciamo che questo è il periodo più, questo è l'album diciamo che si afferma nella scena prog inglese, e non solo, perché comunque cominciano ad avere un discreto successo anche nel resto dell'Europa. Quindi andiamo a presentare gli altri due pezzi in successione, quindi The Imperial in His War Room e Pioneers, sempre 1970. Io avrei, col tuo permesso, avrei anche una domanda, certo, per l'ospite internazionale. Toz, come ti è cambiata la vita da quando non ti rasi più i peli delle ascelle? È cambiata veramente molto, soprattutto perché sono passato la testa, ora mi raso più la testa, sinceramente. Questa era la prima di una lunga serie di domande che faremo durante questa puntata. Allora, mandiamo la musica, vero? Prog 5 quarti. Andiamo con i prossimi due brani in successione, ci vediamo tra un paio d'ore. No, ve li sfumiamo un po', dai. Think that you can hold the lips of death. Stars to be exploited. Somebody help me, I'm falling. Somebody help me, I'm falling down. Into sky, into earth, into sky. We'll be right back. you for 10 centuries ago, or we're going to 15-4-1. One last brief whisper in our loved ones' ears to reassure them and to pierce the fear. Standing at controls that still unknown, we told the world we were about to go. Questo era Pioneer Oversea dei Van der Graaf Generator qui su Radio Wombat. È vero, avevi ragione, proprio 5 quarti. Gli Uriah Heep hanno fatto una tournée in Italia a febbraio ed era proprio a Firenze, quindi la Toscana che te dicevi era proprio Firenze. Ma diciamo, forse perché era di là d'Arno, quindi sì. No, appena si esce da... Oltre l'Arno non si sa nulla, magari ora c'è la guerra, c'è non si sa. Firenze Est, Firenze Ovest, non si sa. Comunque, andiamo avanti e presentiamo diciamo l'ultimo album dell'era prog dei Van der Graaf, del 1971, che viene considerato il miglior lavoro della loro storia discografica, e non solo la loro, ma di quello che è stato tutto il prog internazionale. E dicevo, l'anno era il 1971, l'album si chiama Pawn Hearts, e da segnalare I minuti, la durata del pezzo la durata del pezzo, che dura 23 minuti e 11 secondi. Per onestà intellettuale / professionale, dovevamo dirlo. Sì, che non vi faremo ascoltare tutto, anche perché praticamente sono 2, 3, 4, 5 brani diversi all'interno di un singolo. È una specie di suite, anche questa, non proprio divisa in movimenti, ma ci sono delle parti, diciamo, molto diverse da allora, che non hanno una continuità, ma che comunque fanno parte dello stesso brano. E il brano si chiama A Plague of Lighthouse Keepers, e appunto del 1971, di questo album Pawn Hearts. Praticamente da notare che doveva essere un doppio album, un po' come è stato Amalgama dei Pink Floyd, che c'era la parte che un disco che era l'album vero, mentre l'altro il disco 2 doveva essere una specie di raccolta di, diciamo, di pezzi precedenti e diciamo di pezzi inediti del gruppo, che però non so per quale motivo non, quando andò a uscire l'album uscirono due album diversi, uno come raccolta e uno come, come il disco appunto Pawn Hearts. E quindi andiamo ad ascoltare questo, questo ultimo brano dei Van der Graaf, perché pochi anni dopo la band si sciolse, fecero una lunga tournée nel, fino al 73 mi sembra, 1973, e nel 1974 si sciolsero per poi riunirsi, mi sembra, ma tipo 10 anni dopo, con in questo frangente ci furono delle esperienze personali, delle carriere soliste, altri gruppi con altri nomi, ma poi si riunirono come Van der Graaf Generator. L'unica cosa da dire è che nel nome Van der Graaf Generator ci fu un errore, non so se di stampa o non so di qua, una specie di refuso, che Graaf è scritto solo con una F invece che con due, come era il nome originale dell'inventore del generatore a energia elettrostatica Van der Graaf. Questa era una piccola nota. Complimenti per la trasmissione, grazie. Bene, e andiamo con la piaga del faro, con i Van der Graaf Generator, e dopo Dick passiamo a presentare l'ultimo in assoluto dei gruppi prog, anche con un certo di un certo con spessore, una certa enfasi. Sì, certo. E quindi che fa? Me lo metti sto pezzo? Se mi dai l'ok? Sì. Volevo che esaurissi completamente le No, tue... no, tutti gli aneddoti. Quindi, A Plague of Lighthouse Keepers. You track on the grass. So I only think on how it might have been. Ok, salutiamo Ivan der Graaf. Vi abbiamo risparmiato gli altri 14 minuti di brano che ancora mancavano, però sì, era la parte migliore con molto malincuore dobbiamo tagliarlo, però per questioni, mica possiamo fare tutto noi. Perché sì, in effetti, per questioni di proprio di logistica, di tempi. Anche perché dopo ci sarà un breve, conciso e chiaro intervento dell'ospite internazionale Toz, direttamente da Prao voglio e pretendo di essere rispettato. E il prossimo gruppo che andiamo a presentare sono gli Yes, che il prossimo e nonché ultimo gruppo che chiude, chiudono proprio anche l'alfabeto, quasi chiudono l'alfabeto. Con la Z non avevi trovato niente, vero? La Z, no, ho trovato due gruppi, ma sono hard rock e forse li faremo la prossima trasmissione. Partiamo dalla Z e arriviamo alla A, perché comunque cioè, dobbiamo anche i nostri ascoltatori, dobbiamo dire che chiudiamo questo ciclo con i migliori propositi, ossia sì. Cioè, ci sono diversi progetti in cantiere. Stiamo scrivendo per ora una trasmissione comica, umoristica. Sì, oltre a scrivere un libro proprio sulla nostra trasmissione. Sì. E, insomma, dobbiamo trovare una specie di diario, una casa editrice che abbia il coraggio di produrci. Ok, gli Yes. Vado con gli Yes. Vado? Yes. Che lo sapevo. In effetti te l'ho piazzata me l'hai messa proprio su un piatto di zinco. Allora, e dicevamo, lascio la lunga suite come sottofondo. Sì, sì, tanto almeno ce la sentiamo. Sì. Si unisce l'utile al dilettevole. Ok, gli Yes si formano nel 1968. Il 68, mica il 67, cioè, nemmeno il 69, capito? Esattamente il 68. Toz, te nel 68 quanti anni avevi? Zero. aveva 0 anni, ci ha detto il nostro ospite, Gesù Cristo. Vabbè. Allora, gli S si formano nel 68, come ripetiamo, alla tenera età di 0 anni del Toz. La carriera degli S possiamo dividerla in due periodi. Il primo, progressive, e il secondo, che è caratterizzato da sonorità pop rock che attraversano un po', che attraversano gli anni 80 e parte degli anni 90. Chiaramente noi ci occuperemo della prima fase, del primo periodo. E il nome nasce dal chitarrista Peter Banks, che con insistenza proponeva questo nome. La fantasia, In effetti, quello come è successo con il rovescio della medaglia, un prog 5 quarti, ma minacciato più volte che la puntata si doveva chiamare così, e così sia, amen. Ok. E, dicevamo, il gruppo esordisce proponendo una serie di cover, però trasformandole in complesse composizioni. E il primo album, chiaramente omonimo, / eponimo, esce per l'Atlantic Records nel 1969. E in questo album sono presenti due cover, Every Little Thing dei Beatles, o dell'Os Cucarachas, che dir si voglia, e I See You dei Birds. E noi infatti proprio andiamo ad ascoltare proprio I See You, appunto questa cover dei Birds, e Every Little Thing, ossia andiamo ad ascoltare quest'album. Mi piace questa cosa della cover che stiamo portando avanti. Abbiamo scelto proprio le... Mi intriga. Le uniche due tracce che non sono loro di questo album. Vabbè, ma il primo album si dovevano scaldare. Sì, è un po' come la prima volta, capito? Il primo album non si scorda mai. Ok, allora ascoltiamo da... Come la prima chitarra. La prima basetta di Toz non si dimentica mai. No. Ok, allora... Poi se si scorda la riaccordi. Vai col pezzo. Okay. I see you and Every Little Thing. Ricordiamo gli unici due non pezzi degli S del primo album. Smiling sun through the cave of your hair. ships out of space sitting there. I love you. Ok, e questo era il primo album dei Yes, con due pezzi che non erano degli Yes, e... ok, ossia due cover. E... l'anno dopo, nel 1970, esce il loro secondo album, Time and the World, supportato, Toz, togli la suoneria a sto telefono, l'abbiamo invitato, ospite internazionale, vabbè che non parli l'italiano, ma togli la... cut off the... come si dice la suoneria? Cut off. Oh, kill yourself. Kill you. Ok, l'anno dopo, nel 1970, esce il loro secondo album, Time and the World, supportato da un'orchestra sinfonica di 30 elementi, quindi qua c'è il record. Con gli Uriah Heep prima eravamo a 24 elementi nell'album Salisbury, e qua arriviamo a 30 elementi. Hanno aggiunto 6 triangoli. O sei concas, sei paia di concas, tra cui un paio mie. E ricordiamo oggi, come faceva giustamente notare quel fricchettonaccio di Prog 5 quarti, che è il primo giorno di primavera. Quindi auguri a tutti quelli che, tutte quelle che si chiamano primavera. È vero, sì. Ok, dicevamo, una piccola curiosità, ma questa faccio un po' di outing. Alla tenera, nonché innocente età di 18 anni, comprai la cassetta di Time and the World, è così che ho conosciuto gli Yes. Ce l'ho ancora tuttora nel mio archivio di stato personale. E di questo album andiamo a sentire un solo pezzo, composto da una lunga intro strumentale che si chiama Every Days, che io manderei. Penso a questo punto sì, è doveroso. $10, just making change for plastic cherries up in a tree, Jaybird. Looking at me, no word. Everyone looks, you can't see. We can't be ignored easily. Well, well, well, another day. Well, well. Within the way with things like ecstasy, the sound of trees, most anything, what a baby Ok, siamo a Time and the World. State ascoltando Every Days del 1970. E il gruppo dopo questo album entra c'ho una cosa nell'occhio entra in una sorta di crisi esistenziale con l'abbandono del chitarrista e diciamo per ritrovare un attimo una direzione sia personale sia artistica sia musicale si rinchiudono in una fattoria per un periodo che in qualche modo poi ha avuto i suoi frutti perché nel 71 esce praticamente uno dei migliori album del gruppo che si chiama The Yes Album, che in qualche modo la critica definisce questo, possiamo considerarlo quasi un trittico che comprende The Yes Album, Fragile e Close to the Edge, diciamo l'epoca, l'apice creativo del gruppo. E di questo album andiamo ad ascoltare Yours is No Disgrace, Yes. Sempre qui su Radio Wombat. We'll be right back. is no disgrace. Yours is no disgrace. Ok, eccoci qua, e ormai qua in regia sembra Pasquetta, Proghi 5 quarti che gira con la sua pagnotta, Toz che guarda l'infinito suonando il flauto traverso, e è diventata un po' una Pasquetta, via. Però è il bello dell'ultima puntata, via. Andiamo avanti a presentare sempre gli Yes, e siamo arrivati al 1971, e nello stesso anno il gruppo va in tournée negli Stati Uniti come gruppo spalla dei Jethro Tull, Ten Years After e i Black Sabbath, e tra il 71 e il 72 incidono due album che, come abbiamo detto prima, la critica li include in una sorta di trittico, quindi un po' come l'apice creativo del gruppo, ossia escono tra il 71 e il 72 Fragile e Close to the Edge. E di Fragile ascolteremo Roundabout, mi piace tantissimo la pronuncia di questo pezzo, Roundabout, e mentre di Close to the Edge presenteremo proprio il pezzo omonimo, che mi sa che dura un'infinità anche questo, però 18 minuti e 45, però almeno qua i ragazzi possono festeggiare la loro Pasquetta in pace, divertendosi. E nulla, ascoltiamo Roundabout e ci avviamo quasi verso la fine, perché appunto presenteremo questi due pezzi, come abbiamo detto, Roundabout dall'album Fragile e Close to the Edge dall'album Close to the Edge. Thank you. Ok, state ascoltando Roundabout degli Yes dall'album Fragile e chiudiamo con l'ultimo pezzo, anzi l'ultima suite, giusto per chiudere in bellezza, per non smentirci mai, Close to the Edge dall'album Close to the Edge degli Yes, e con questo album chiudiamo la nostra esperienza con gli Yes. E poi diciamo l'idea che abbiamo pianificato ora, che manderemo un po' questa lunga suite e dopo daremo il benvenuto all'ospite internazionale, il Toz da Prao voglio e pretendo di essere rispettato, che sarà, diciamo, questa è una rubrica che faremo come ultima puntata, che ossia da quando Barbara D'Urso è andata in pensione ci occupiamo noi dei casi umani e quindi avremo la possibilità di presentare, sì, il suo progetto a... Ora, appena finiscono le uova sode di Pasquetta appena finiscono di suonare i giambe sul prato, ora sta arrivando e sta finendo l'ultimo assolo di flauto in diretta. Ti ho portato pure le macchinine, gioca con le macchinine. Quindi Toz, allora, ti lascio la mia postazione e questa intervista verrà curata dal nostro Prog One. Sì, orgogliosamente. Certo. E onorato. Quindi andiamo avanti con Close to the Edge. E a un certo punto, quando ci saremo rotti le palle di ascoltare questo pezzo che dura 20 minuti, partirà questa intervista e questa presentazione di questo progetto da parte del nostro ospite internazionale. Prego. Chiaramente, se avrete delle domande da fare o delle incomprensioni, che sicuramente ci saranno, scriveteci a postawombat@insiberia.net. Quindi no, i saluti ancora no. No, andiamo. Ancora no, ma andiamo. Prendiamocela con comodo, sì. Poi da qui poi ci chiudono fuori e rimaniamo disoccupati. Quindi prendiamoci tutto il nostro tempo. E sembra che sia successo qualcosa, ma in realtà è solo finito il pezzo. E prego, Close to the Edge, gli Yes. Non sta andando. 18 minuti e mezzo di silenzio. Può darsi. Però allora ah, no, come... arriva. Buon ascolto. Ok, bene, avete ascoltato, avete avuto giusto un assaggio di quello che era Close to the Edge, che chiudeva che chiudeva appunto con la presentazione degli Yes, e, però abbiamo deciso di lasciarla come sottofondo per presentare la nostra nuova prima e unica puntata della nostra rubrica. E da quando Barbara D'Urso è andata in pensione i casi umani ce li accogliamo noi e diamo il benvenuto ufficiale all'ospite straniero della settimana qui su Radio Wombat. Benvenuto Toz. Allora, grazie innanzitutto per avermi ospitato e per questa breve, potremmo dire, intervista, perché voi potete accettare casi umani come me. Parla, ti si è detto prima, parla attaccato al microfono, lo vuoi il cachet? Scusate, non sono abituato. Allora abituati. Come quando vai in tribunale a fare le tue dichiarazioni, devi parlare con la bocca attaccata al microfono. Vabbè, mi sembra più che normale. E niente, aspetta, ci vuoi un po' presentare il tuo progetto? Va bene, allora, questo progetto... Perfetto, grazie Tozzo, buona serata. dai, facciamolo, vai, prego, Tozzo, a te la parola. Allora, è un progetto che è nato, diciamo, dai bassi fondi dell'underground, potremmo dire. Scusa Tozzi, cioè cosa arriva all'inferno, i bassi fondi esatto, dell'underground, esatto. Dove cazzo arriviamo Tozzi? Inferno dantesco. Vabbè, underground, diciamo bassi fondi, dei semplicemente concetti, la traduzione, diciamo, di semplicemente l'underground, molesta, eccetera eccetera. È nato questo progetto il cui titolo è True Attitude Punk Oi, in cui si tratta di un video documentario che proprio parla della scena oi punk italiana, di cui va a trattare sia da quella vecchia a quella nuova. E sarà, come ho detto prima, un video documentario in cui non è che andrà a parlare soltanto delle varie band storiche che sono esistite a quelle d'ora, andrà a parlare, diciamo, delle vecchie crew storiche che sono esistite negli anni precedenti, in cui si parla da già anni 70, o se no anche le nuove crew di ora, cioè del 2000, potremmo dire. Sì, quindi farai un po' un escursus storico dagli anni 70 a oggi. Esatto, esatto. Ma seguirai, cioè nel video saranno presenti anche degli estratti di concerti storici, di concerti contemporanei? Stai seguendo qualche gruppo in questo momento? A voglia. Io oramai da anni che vado in giro per concerti da altra parte del mondo o anche qua in Italia. Per te Pistoia è l'altra parte del mondo. Esatto. Anche campi. Sì, esatto. A parte poi, cioè, no, mi raccomando, no, cioè, cerca di non svenire ai concerti, perché sennò che riprendi dopo che presenti. Lo so, scusate. Cerca di essere un reporter, un documentarista. Ah, no, professional. Certo. No, il progetto sta per partire e potrei dire che partirà di già da questo venerdì a un concerto che sarà a Modena. Domanda bollente: i fondi, la regione, la provincia? Per niente, tutto autofinanziato da me con mie spese e tutto quanto. Grande. Cioè sudore di mio sudore, in poche parole. Grande, grande Tozzo, si vede anche dalla maglietta, dagli aloni che è. Va bene, andiamo avanti, no, questi sono tutti piccoli, vai. Sì, sì, e niente, come ho già ben detto, ci saranno anche interviste di personaggi storici, cioè personaggi X che hanno fatto valere la scena dall'inizio, in cui è stata, diciamo, fatta nascere da questi personaggi fino ad oggi, perché questi personaggi non è che si sono estinti come i dinosauri, no? Sono ancora tuttora all'interno di concerti, eccetera, che vanno sempre a supportare, diciamo, la nostra scena. La scena. Dici qualche nome, via. Se... Allora, all'interno della scena fiorentina ci sono già due nomi che hanno già dato l'ok. Uno è Imoga, che è uno storico skinhead, potremmo dire forse anche il primo skinhead a Firenze, che ha vissuto tutta l'area fiorentina e non, e più anche il storico Roccia, il Roccia, il storico punk fiorentino che oramai ha 50 e passa anni, che ancora porta i suoi famosi leggings leopardati ai concerti. Ti volevo chiedere invece su Prato cosa hai trovato o chi hai trovato? A Prato potremmo dire per ora quasi nessuno, perché il progetto parte già da venerdì, quindi siamo ancora in stato di elaborazione, però di già quando è partita questa idea ci sono due ragazzi che hanno voluto, diciamo, dare collaborazione. Uno è un ragazzo di Bologna e l'altra è una ragazza che sta nell'area di Padova, Treviso, quelle zone lì, insomma. E oltreoceano chi hai trovato? Oltreoceano nessuno, visto che la scena è soltanto quella italiana, il documentario. No, no, magari vabbè, che ne so, qualche forse emigrato, qualche vecchio punk skin emigrato. Ah boh, che ne so, cioè io ho 22 anni purtroppo, quindi... Vabbè, ma è una vita davanti, vai. Esatto. Noi a 22 anni si vedeva... Purtroppo hai una vita davanti. esatto. Ok, allora, ci hai detto tutto, no? Del progetto, ci vuoi dire anche... Hai trovato la telecamera, sì? Certo, l'ho trovata, usata naturalmente, però chi se ne frega, l'importante è che funziona. Usata nel senso che ha saltato qualcuno, qualche turista a Firenze che faceva le riprese in centro. No, magari, guarda, questi Yankee. E poi, che ci volevi presentare più, che dicevi prima? E in poche parole, nell'area fiorentina fa parte anche di un collettivo. Ti rimangono 5 minuti e 51-50 secondi. Ottimo. A fine pezzo. Allora, fa parte anche di un collettivo chiamato Underdogs Collective, che si tratta di un collettivo che è nato per far rivivere una vecchia scena all'interno dell'area fiorentina, che oramai c'è poco. E, diciamo, da supportare, a parte il collettivo No Rumori, che porto tanto rispetto, che si sta sbattendo a organizzare i concerti, però l'Underdogs Collective non è che va a supportare un'intera area musicale, va soltanto sui punk, l'oi e l'hardcore, niente di particolare. Abbiamo già ben iniziato l'anno scorso d'estate organizzando gli Adolescents, un gruppo storico hardcore punk all'interno del Camilo Sanfuegos, in cui è stato Yankee, esatto, sottolineo, esatto. Però è stata una serata della Madonna, del tipo che dentro c'erano 60 gradi e fuori ce n'erano 25, quindi vi potete rendere conto che situazione c'era. Era estate, dopo era estate, però squagliavano, volevo... pure i camion del deposito lì accanto, però ti ci volevo vedere te sotto il palco a far sicurezza, va. Non sei svenuto a quel concerto? No, quello lì no, quello poi lì che no. Sicurezza facevi? Che ne so, non so nemmeno io tra un po', via. Ma così, vabbè. Ci vuoi parlare del tuo corso di sicurezza pure? No, e poi siamo andati avanti dopo il concerto di Adolescence, sempre organizzando concerti e anche facendo collaborazioni con il Camilo Sanfuegos per i suoi 15 anni di lotta, potremmo dire, e in cui c'erano sul palco i famosi Nabat provenienti da Bologna, i Colonia Infame provenienti da Roma. E poi, naturalmente, visto che siamo nell'area fiorentina, i famosi Attaccabrighe, che hanno fatto la reunion per, appunto, per il compleanno del Camilo Sanfuegos. Raccontaci un po' com'è andata sta serata, via. Beh, è stata una serata di poco stupenda, perché c'è stata molta partecipazione e qui si parla di centinaia e centinaia di personaggi che sono venuti al concerto a supportare l'intera situazione. E a parte il sottoscritto che sta parlando, che è svenuto durante il concerto per via di un cazzo di callo di zuccheri. Ma durante in Abbath o durante... Era, per quello che mi ricordo io, per quello che mi hanno detto altre persone, durante con la infame. E tipo mi è mancato il respiro, poi badabum, sono collassato. La gente mi ha ripreso e mi hanno detto sembravi un peso morto, mi hanno tirato così tanti ceffoni che tipo gli altri due qui accanto a me sembrano già belle morti. Facciamo tornare a Barbara d'Urso, non stavamo parlando le due croce, vabbè, via, e questo non ha fatto un po' di outing, ragazzi. Esatto. Via. Ci siamo quasi, e a questo punto, se hai da aggiungere altro, ma non lo aggiungerai, sì. Ti ringraziamo. No, volevo aggiungere un'altra cosa che non ho detto prima, nel progetto della True Altitude Panko Isa, tutto benefit per i ragazzi della lotta Notav, o se no anche i ragazzi delle BSA, in cui si stanno occupando dei vari terremotati che ci stanno nel sud Italia, quella zona lì in poche parole, e più questo progetto che è partito da qualche anno e cui va a sostenere le varie spese legali dei compagni skinhead in giro per l'Italia. E ti volevo chiedere, come questo documentario come uscirà? In che formato? Uscirà in DVD. In DVD, e ancora bisogna naturalmente vedere, diciamo, se dentro una cassetta dentro ci sta questo DVD, o se no un DVD dietro la copertina di plastica, si sta a vedere. No, ogni perché cosa. A me mi è giunta voce che a Napoli hanno fatto già il pezzotto del tuo documentario. Cioè, a Napoli sulle bancarelle c'è già il tuo documentario contraffatto. Vabbè, ci sta, non si sa mai. Va bene, via. Allora, grazie. L'importante è che venga diffuso in qualsiasi modo, no? Sì, esatto, il verbo, bisogna diffondere il verbo. Grazie Toz, Prog 5 quarti si occuperà del cachet, ti ringraziamo. Per sostenere il tuo progetto. Grazie, grazie. Questo è il regalino che ti ho portato. Anche le macchinine. Vi ringrazio ancora per l'ospitalità che mi avete dato e soprattutto per l'assaggio del panino di uno di questi personaggi che vi ha guidato per tutta la serata. Veramente ottimo, ve lo consiglio. Contattate direttamente Wombat Radio per la ricetta. Grande Toz, grande. Ora Toz vai di là, esatto. Grazie. Allora, dopo questo toccante momento, dopo questa toccante rubrica, ritorniamo nei nostri cenci. Ritorniamo per lasciarvi definitivamente ora. Definitivamente work in progress, cioè abbiamo delle idee. Ho capito, in cantiere. L'esperienza del rovescio della medaglia finisce qui e vi lasciamo con un brano struggente. O magari anche noi faremo un documentario su noi stessi. Sì, magari io riprenderò Prog 5 quarti, lui riprenderà me, e vi staremo a vicenda. Bene, sarà una cosa abominevole. Formato VHS usciremo noi. Sì. Anzi, con i bobinoni. I bobinoni da 23 kg. No, in pellicola 16 mm. Esatto. Sì, io sinceramente avrei chiuso con un qualcosa di più allegro, di più simpatico. Invece Prog 5 quarti l'ha buttata proprio su. No, anche perché abbiamo tralasciato questo gruppo, che è considerato un'ispirazione per tutti i gruppi progressive, anche se non è un gruppo prog, ma è un gruppo più proto prog, diciamo. Sono Tardo Beat Proto Prog. Questi sono i Muddy Blues. Il brano come si chiama? Il brano si chiama Nights in White Satin. Ah, ok. Me l'ho dimenticato. No. Vabbè. No, non me lo ricordavo. Beh, è un pezzo famosissimo, anche questo coverizzato da, da tanti italiani. A questo punto, prima del brano, salutiamo tutti. Salutiamo Wombat Radio, salutiamo tutti i DJ di Wombat Radio, tutti quelli che ci sostengono, e tutti quelli che diciamo che lavorano tra virgolette per noi, quindi tutti i tecnici, tutto l'aiuto tecnico, l'aiuto a livello web, sonoro, sì. Cioè tutti quelli e tutti quelli che ci sostengono e tutti quelli che verranno sabato 25 marzo alla Peri Wombat al CSA Next Emerson in via di Bellagio. Ok, e l'ultimo angolino social. Se volete donare da 1 a 5 euro per il progetto del TOTS, potete mandare un SMS all'800 223 223 scrivendo 1 euro o 2 euro fino a 5 euro per TOTS. No, date ascolto per favore, date i soldi per lui per favore, perché l'ospedale psichiatrico non ne vuole più, per favore aiutateci. Ok, allora grande finale chiusura. Senza dimenticarsi ovviamente di tutti i nostri ascoltatori che ormai ci avranno abbandonato dopo 2 ore e mezzo di diretta, però comunque i nostri classici Stefanino, Fede e la Nenia e tutti i vari colleghi DJ di Radio Womba. Ciao ragazzi e a risentirci a presto. A presto. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Yes, I love you. Oh, I love you. Gazing at people, some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Yes, I love you. Oh, I love you. Oh, I love